Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Non c'entra nulla con l'argomento di cui vorrò trattare questa mattina, mi serve per introdurlo. 3 anni fa, ricordate, parlai a questi microfoni del terremoto dell'Aquila. Sono passati 3 anni, non vedo in nessuna prima pagina di quotidiano oggi fare cenno a questo evento. C'è stata una fiaccolata questa notte di cittadini dell'Aquila, ma già hanno detto che è la metà delle persone della fiaccolata che fu fatta l'anno prossimo. Perché parto con il terremoto dimenticato? Perché io in quel terremoto ho lasciato una casa, che è ancora lì, perfetta, in piedi, potrei andarci a dormire se mi ci facessero entrare. Era una casa che avevo comperato, costruito, ristrutturato per far crescere i ragazzi in un bel posto vicino alla montagna. C'erano i mobili, i giocattoli, i lettini, che ormai non c'entrano più i figli perché in 3 anni sono cresciuti molto. Beh, io quella casa me la sono dimenticata, quindi evidentemente non mi serviva. Evidentemente potevo farne benissimo a meno. Un'intera casa piena di mobili, piena di oggetti, superlettili, e lì, ferma, muta, si guardano le stanze l'una con l'altra, le porte stanno chiuse, le finestre non affacciano su nulla, e sta lì dimenticata. Come una casa intera, che una casa è tanto oggi, pensate quanto è una casa, anzi ci dovrò pagare anche molte tasse per una casa che non uso. Quante cose, quanti oggetti noi gli attribuiamo un valore immenso, sembrano indispensabili al nostro vivere, in realtà ne potremmo fare a meno. L'ho visto in questi giorni che ci sono stati dei ritardi nella raccolta della spazzatura in certi quartieri di Roma, tra cui anche quello dove abito io. Montagne di roba davanti ai cassonetti. Era il bengò di la pacchia per quei signori che girano con un carrellino della spesa e con un bastoncino e si mettono a ravanare nella spazzatura, riempiono quei carrellini, tutti molto ben educati, tranquilli, svolgono quel lavoro in maniera molto professionale, come se fosse stato il loro lavoro da sempre, e portano via questi carrellini di oggetti. Io mi domando cosa prenderanno mai. Poi li vedo il giorno dopo, di fronte all'entrata alla metropolitana, stendere per terra delle coperte e lenzuola e vendono quello che hanno ravanato nei cassonetti. E appaiono un'infinità di oggetti che sembravano probabilmente a tutti indispensabili, ma qualcuno ha pensato di buttare via: un vecchio che muore, uno zio che non ci fa caso, un bambino distratto. Immediatamente una serie di oggetti li prendono e vanno nel cassonetto, salvo poi gli stessi umarelli a cui li hanno buttati via, li vanno a ricomperare la mattina dopo al mercatino davanti alla metropolitana. Questa mattina, che è la giornata di preludio alla Pasqua, oggi è l'ultimo giorno della Pasqua con un senso, un valore religioso, abbiamo parlato ieri, oggi parliamo della Pasqua di chi semplicemente la prende come un giorno di vacanza. Questa mattina Roma è invasa da famigliole con le carrozzine che vengono a visitare Roma. Da tutta Italia vengono a Roma a passare la Pasqua. Noi che abitiamo a Roma non vediamo l'ora di prendere e andarcene e intasare il raccordo anulare per andare non so dove. Beh, di quante cose noi potremmo fare a meno? Avete mai fatto caso che noi siamo circondati di oggetti che in realtà non ci sono indispensabili a vivere? Per vivere basta molto meno, per vivere basta pochissimo. Non deve essere un inno al pauperismo, un inno alla leggerezza. Io questa mattina vorrei che voi rifletteste e esponeste in massima sincerità, senza nessun vincolo, senza nessuna reticenza, ammesso anche che le cose di cui vi vogliate liberare appartengano al genere umano, mi diceste quello che avete intorno di inutile. Fate un elenco, fate una piccola lista delle cose inutili che avete. Io mi guardo intorno, questa mattina non ho l'orologio, sto benissimo. Cosa ne faccio un orologio al polso? Perché devo appesantire il mio polso con un cinturino che soffoca la pelle delle mie articolazioni della mano quando davanti qua un orologio nel telefonino, ovunque ci sono orologi. L'ora poi non è così indispensabile. 800 24 00 24. Facciamo oggi le vere pulizie di Pasqua. Io ho semplicemente scelto degli oggetti assolutamente inutili trovati nella mia stanza, ma fondamentalmente che danno spirito e anima al mio covo. Allora, questa è la prima. Questa lampada mi è stata regalata da mia zia perché sa che adoro queste stupidate. Mi ha reso felicissimo, un po' meno quando ho scoperto che la lampada non funzionava, soprattutto dopo aver inserito la pila. E boh, mi ha buttato un po' in malinconia, ad essere sincero, però ma bisogna essere contenti delle piccole cose, no? Naturalmente YouTube è una fonte inesoribile di persone che proclamano, celebrano, danno una liturgia alla santificazione dei loro oggetti inutili. Filmare un oggetto, fotografare un oggetto, diffondere l'immagine oggetto e naturalmente attribuire, anche in ragione di quello che dicevamo ieri, una sorta di illusione di eternità a questo oggetto. L'oggetto diventa un feticcio. I frequentatori dei social network, soprattutto di Facebook, che permette di pubblicare delle foto, sono dei grandi consacratori di oggetti inutili. Gli oggetti più inutilmente consacrati sono naturalmente quelli che si appoggiano attorno al proprio luogo di lavoro, dove è più facile fotografarli, riprodurli e metterli immediatamente in circolo. Di quanti oggetti inutili è colma la scrivania di una persona che lavora, di un medio lavorante di lavoro sedentario? Iniziamo dalle cornici con le foto, iniziamo dai piccoli oggetti a collezione, iniziamo dai gadget regalati, iniziamo dai portapenne piene di penne che nessuno usa. Pensate se per un attimo passasse uno tsunami e vuotasse tutte le nostre scrivanie e lasciasse soltanto la scrivania artificiale riprodotta dal nostro computer, che può essere piena di oggetti all'infinito, ma oggetti impalpabili, oggetti che non occupano spazio, oggetti che non ci vincolano con un rapporto affettivo a doverli mantenere, anche se il nostro spazio vitale viene fortemente compromesso dalla loro presenza. Avete cominciato a pensare, cominciate a chiamare all'800240024, immaginate una grande raccolta differenziata, una grande discarica degli oggetti inutili, e pensate quanto ne uscireste leggeri, lasciando dietro le spalle tutto ciò che appesantisce il vostro quotidiano, perché ogni oggetto è pieno di ricordi, è caricato di quasi sentimenti che non è giusto che possegga, perché è un oggetto. Eugenio, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno. Ah, cominciate a dare un'occhiata intorno, di cosa si vuole liberare? Ma guardi, io in realtà mi sono, come diceva lei all'inizio, mi sono riempito la casa di oggetti provenienti da mercatini. La metà di più della metà di questi forse dovrei riportarli esattamente da dove erano stati presi, cioè spazzatura. Sì, ma oggi se lei li butta, non so in che città lei abiti, ma perlomeno sono a Roma. Milano. Ecco, a Milano è la stessa cosa. A Milano, anzi, c'è anche un'organizzazione benefica che dà un senso di reale impresa a raccattare nei cassonetti. I cassonetti sono in realtà una miniera d'oro per i recuperanti di oggetti, per il feticista. Sì. Dell'oggetto. Assolutamente, sono anche un appassionato, sono un prenditore, un trovatore e poi anche un acquirente finale di questa filiera del recupero. Quindi diciamo. lei va a diciamo ravanare nei cassonetti altrui a cercare oggetti, poi li porta a casa. Alcuni tra l'altro di assoluto, le faccio un esempio, ho trovato non più di 2 mesi fa, non so se riconosce, una serie, due casse della Grundig degli anni 70, della serie Audiorama, diciamo di quelle che hanno un valore di mercato, quelle in realtà molto elevato, siamo sui 600 euro ed erano esattamente sotto casa mia. Perché lei è un intenditore, magari qualcuno ha detto il vecchio stereo buttiamolo via, non sapendo che esattamente andava via qualcosa che era un valore di modernariato notevole probabilmente. Sì, ma adesso... Insomma, purtroppo molti sono assolutamente inutili, quindi ho di fronte a me per esempio delle caffettiere di Alessi che sono molto belle ma sono bruciate, quindi totalmente inutili. Il problema è che ne ho 4, quindi che cosa me ne faccio? Sono lì e mi occupano solo spazio. Ma lei pensa quando sarebbe bella la sua cucina senza quelle caffettiere inutili? No, bene, in effetti è vero, hanno un valore, diciamo, un valore che sì. Può più che altro. Ma uno fa sempre un investimento, cioè un domani varrà, è chiaro, tutto vale, anche la biciclettina Graziella che c'avevo quando ero piccolo, pieghevole, che faceva schifo, oggi avercela magari la mettono in un museo perché rappresentava una sorta di desiderio di motilità pulita degli anni 70, qualcosa del genere, ma un'infinità di cose che appartengono alla nostra giovinezza, fanciullezza, alle epoche cassate, poi assumono valore con il tempo, ma non possiamo diventare dei musei di oggetti, meglio è diventare musei di pensiero probabilmente, i nostri pensieri non occupano spazio, ma gli oggetti sì. È esattamente lo stesso pensiero che mi sta venendo, visto che ho iniziato dicendo va che bello questo, va che bello quello, poi adesso sono in vago. Allora, di mi oggetti. Dica quale sarà l'olocausto dedicato a questa mattina, cosa butterà via per noi oggi? Butterò via... Però una cosa che la butta via davvero, un impegno reale, sì, concreto. Sì, sì, butterò via un 45 giri, un 45 giri di Carletto, con la lazza, la ricorda? L'ho fatta nel letto per fare rispetto, esatto, mamma e papà. Me la, Tra l'altro, speriamo non mi sia sentito, me l'hanno regalata perché faccio collezione anche di 45 giri, però veramente è agghiacciante. Sì, ma guardi, se va su YouTube, cerca Carletto, l'ho fatta nel letto, ne trova 2000 versioni. Ormai l'impalpabilità del file audio o video non rende indispensabile tenersi il supporto concreto. Prenda Carletto, lo usi come un frisbee, lo butti alla finestra, lo faccia subito, farà noi felici, meno felice chi se lo prenderà sulla testa come un boomerang. Luca, buongiorno. Buongiorno. Di cosa si libera per noi? Per me tutti gli oggetti sono inutili se non hanno una funzione pratica. Sono un po' strano da questo punto di vista. Quando mi hanno regalato un po' di compleanni fa un libro che si chiamava Toys for Boys, automobili, penne, ecco, ho avuto un attimo un brivido, sì. Per me è il nulla pneumatico, un orologio è un orologio, il fatto che costi 50.000 euro mi sembra una pura assurdità, deve svolgere una sua funzione pratica. Vabbè, adesso non sia così pragmatico, fa parte dei sapori della vita avere oggetti di gusto, di piacevolezza e a volte di frivola rarità, è bello avere una cosa che si sa che ha un pregio, fa uscire allegro. Ma un oggetto è un oggetto, è un qualcosa di inanimato che dà poco di se stesso, dà quello che noi vogliamo decidere di... Ma ci sono oggetti che fanno miracoli, guardi, danno molto di se stessi e molte volte sono anche meglio degli umani. Questo non sarei così drastico. Io direi liberarsi degli oggetti magari per fare spazio a nuovi oggetti. È il museo casalingo, è il cimitero delle cose vecchie che probabilmente deprime. In realtà avere cose nuove, bello, da piacere, da soddisfazione. Un bello oggetto che ci regalano, perché oggi c'è una grande furiosa passione per alcuni attrezzi personali, individuali, come computer, tablet, non particolarmente di pregio, ma perché? Perché hanno una bella confezione, sono entrati nel gusto generale, piace averli perché sa che sono oggetti di distinzione, anche se ce li hanno tutti, perché magari costano tanto. Avere una cosa preziosa e costosa addosso è certo che gratifica, ma non so quelle dovete buttare via, dovete buttare via le cianfrusaglie, le cose inutili, le cose che avete ammassato, ciò che vi soffoca e vi toglie leggerezza. Carlo. Ah, sono ascolto la trasmissione solo da pochi minuti e probabilmente non ho avuto il piacere di conoscere il tema diciamo dominante. A il tema è buttiamo via le cose inutili che ci soffocano. Perfetto, allora anche le persone a proposito delle caffettiere Alessio di cui parlava prima l'altro ascoltatore, volevo consigliarlo di tenersele perché sono assolutamente recuperabili, si può lucidare la bruciatura con pasta abrasiva leggera e ritorno assolutamente nuove. Vabbè, lei ha un rimedio per rimediare. Il signore in realtà cercava una scusa per poterle buttare via. Lei porta il rimedio dell'umarelle con la pasta abrasiva, tornano lucide, ma il caffè si fa una volta, si fa un caffè per volta, una caffettiera per volta, cosa, mette quattro caffettiere sui fornelli, cosa ne fa uno? Sono tante, sì. Quattro sono tante, in effetti sono tante. Grazie, andiamo avanti. Il prossimo oggetto che vi presento è sempre un regalo di mia zia e non so neanche bene perché me l'abbia regalato, però a me piace un sacco perché è strana, è una frusta da domatore. Ora vi domanderete, mia zia è una domatrice di leoni? No, fa l'agente immobiliare, però questa frusta è molto lunga, tra l'altro sarà un metro e qualcosa. Sinceramente non voglio chiedere a mia zia questo povero ragazzo. Ecco, questo povero ragazzo probabilmente si sarà fatto le domande e dato delle risposte, ma non su YouTube. La frusta del domatore della zia mi ricorda un aneddoto ricordatomi da una mia cara amica, di una nonna cattivissima che ci aveva con tutte le nipoti. Quando morì, nel suo armadio trovarono dei singolari oggetti, non erano proprio fruste ma erano oggetti di artigianato che facevano presumere che la nonna in realtà odiava tanto le nipoti perché probabilmente le considerava un frutto obbligato, maledetto di un connubio che non era proprio rispondente ai propri gusti affettivi e sessuali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io intervengo perché vi seguo sempre nella trasmissione, anzi complimenti. Niente, io volevo intervenire perché al contrario degli amici che sono intervenuti prima, non ho passione di tenere le cose. Anzi, penso sempre di liberarmi più velocemente possibile. Oh, lei è una persona che ha una visione zen della propria casa, quelle belle case vuote, bianche, asettiche, senza soprammobili, senza nemmeno quadri alle pareti, che trovo un appesamentimento inutile del nostro spazio. Quindi lei non ha bisogno, perché lei, gli oggetti non rimangono attaccati al suo habitat, al suo ambiente. Esatto, però al contrario mia moglie invece tiene tutto quanto. Quali sono gli oggetti che più odia di sua moglie? No, non è che odio, odio proprio il fatto di tenere le cose. Ma se li odia, perché non glieli butta via? Se non vuole la guerra in famiglia. Ma mi faccia un esempio di qualcosa che, se lei potesse, avesse libertà. No, per esempio, mia moglie, noi abbiamo due bambini e difficilmente si libera delle cose, no? Abbiamo un'età ormai che, l'ultimo è arrivato un anno fa, è stato un grande regalo, però non abbiamo obiettivi di fare tanti altri bambini, quindi io gli dico: liberati di queste cose, dai magari ad altre persone. Il box, il girello, il pasto, non servono, esatto, più. Esatto, esatto. Gira. E lei li tiene? Sì, li tiene, perché un po' perché il tempo rimane. Io starei preoccupato, però, se fosse. Perché questo è segno che evidentemente non si è accontentata dei 4-5 figli che già avete. No, ne abbiamo solo due. Solo due, vede. Evidentemente non è finita la serie per sua moglie. Questo no. È un sintomo sul quale io lavorerei. Andiamo avanti, Anna Maria. Sì, buongiorno. Allora, intanto volevo dire che ho tre o quattro armadi pieni di vestiti che non metto. E perché li tiene? Non lo so, se in alcuni spero di rientrarci. Ma quando? Ormai non c'è speranza. Ogni paio d'anni ogni tanto ci rientro. Ma saranno cose pessime, fuori moda, brutte, non le vorrà vedere nessuno. Questo è il punto, è che sono cose classiche. Ma tristissime. Guardi, le cose classiche sono le cose tristi, sono le cose che ammantano una sorta di fodera di zinco da bara a un essere umano. Nulla mai di classico va messo. Va messe cose che danno freschezza, senza necessariamente dover essere sempre alla moda. Ma già un cappotto o un paio di pantaloni di 2 o 3 anni fa sono immettibili. Perché? Perché si vede subito che roba vecchia. Meglio buttarli via e ricomprarli. Ma guardi, io invece non sono d'accordo, perché spessissimo mi sento fare dei complimenti e quando dico che sono cose di 10 anni fa o... Mi faccia un esempio di qualcosa che lei considera classico e si mette addosso e secondo lei le sta ancora bene, ad esempio? Un tagliere nero, per esempio, che io metto quando mi rientra per l'ultimo dell'anno. Ma quanti ultimi dell'anno ha fatto quel taglierino nero? Ma 3 o 4. Non sarebbe ora di cambiare, tanto saranno sempre gli stessi parenti che la vedono, dice ancora con quel vestito. No, io ogni anno cambio, non vado mai con le stesse persone. E non fa prima a cambiare il vestito? Ma il fatto è questo, che con la moda che praticamente ogni anno cambia, io difficilmente trovo delle cose che mi piacciono, anche per le scarpe per esempio. Adesso vanno di moda delle scarpe con una punta che... E io aborro proprio, non mi piace, come quando sono andate quelle a puntissima, che sia per la mia conformazione del piede, sia proprio per l'estetica, non mi piacevano, e quindi per fortuna avevo tante scarpe e ho continuato a mettere per 2 o 3 anni scarpe classiche che non mi danneggiavano il piede e che comunque a me piacevano. Sì, però alla fine l'accumulo va a terminare, ci sarà un momento... Io infatti ho questi vestiti in 3 case, nella casa al mare, nella mia ex casa di ragazza e nella casa in cui vivo adesso con mio marito. Scusi, ma nella casa di ragazza c'è ancora i vestiti quando lei era bambina? Come Baby Jane, va lì e si veste come quando bambina, era bambina? No, ma giovanetta sì. Che le posso dire? Ho il vestito che ho messo alla comunione di alcuni miei nipoti, ho il vestito del matrimonio dell'amica, perché non lo do via, perché magari so che l'ho pagato tantissimo, mi dispiace. Delle volte sono per ragioni affettive, altre volte perché mi piaceva talmente l'abito che spero sempre di rientrarci dentro, perché sono una fisarmonica fisicamente. Verrà un giorno che questi abiti avranno probabilmente anche un valore di mercato. Ma non lo faccio certo per quello. E poi ho la casa piena di ninnoli presi in giro durante vari viaggi, e soprattutto di ninnoli da cui non riusciamo a staccarci, acquistati dalle suore quando il figlio andava a scuola dalle suore. Sta elencando un universo di tristezza indicibile. Gli oggettini delle suore, i gadget, i lavoretti fatti dai ragazzini dalle suore, i vestiti vecchi della comunione, cioè ci verrebbe la trama per un film dell'orrore. Deve uscire da qualche parte l'assassino e fare fendenti di coltello per riportare giustizia. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti, un saluto a tutti e grazie per avermi richiamato. Il tema interessante mi ha sollecitato un ricordo. Io sono un pellegrino in qualche modo, è andato a Santiago un paio di volte, una volta in bicicletta. Quindi le bastava una bisaccia e una conchiglia, non le serviva altro. E teoricamente sì, il concetto dello zaino da preparare per affrontare i chilometri, insomma, che ognuno sceglie di percorrere, è un problema. Cioè, adotto la regola del 3 o del 2, cioè 3 magliette, 3 pantaloncini. Io adotterei la regola della carta di credito, io non mi porto niente dietro, me la compro per strada. Ma la carta di credito, sa, comunque può essere in difficoltà e non trovare, non so, il ricambio per le scarpe o le spille da balia, che magari nessuno dice. Ma cosa servono le spille da balia oggi? Si comprano, si trovano magari. Per fare cosa con una spilla da balia? Le spille da balia, per esempio, se trova giornate particolarmente piovose lungo il cammino e non ha modo di asciugare i calzini, con la spilla da balia attacca i calzini allo zaino, confidando magari nel sole, e alla fine della giornata. Cioè, lei cammina come un appendi panni sporchi sulle spalle dietro. Beh, no, sporchi no, perché. E con le spille da balia si attaccano i pedalini lavati. E la sera il buon pellegrino ha modo di lavare tutto ciò che porta con sé. Ma quando si asciuga la notte, difficilmente. La notte, infatti, è lì se viene in aiuto al pellegrino moderno la tecnica, quindi si scelgono calzini. Vabbè, ma i calzini con 2 euro ne prende 5, li butta via e li ricompra. No, attenzione, il calzino non deve avere le cuciture, devono essere indossati al contrario. Ah, calzino da pellegrino apposta. E certo, perché altrimenti i poveri piedi che già sono soggetti a... È molto piatti. Interessante, però devo fermarmi un attimo per dare le informazioni della borsa, riprendiamo tra un istante sulla capacità di accumulare la voglia e il desiderio di alleggerirsi buttando via. Melog, la realtà condivisa. Ciao, allora iniziamo dai miei orologi. Io ho un sacco di orologi. Questo è fatto con un cuoricino, con tutti i brillantini. Non sono orologi di marca, sono questi qua che stanno sui 15 euro. Poi faccio vedere quest'altro qua, mi è stato regalato da mia zia, grazie zia, è bellissimo. Questi qui che stanno sui 5 euro, però questo starà un po' di più perché è particolare. Tengo questo orologio qua, fatto sempre persone che elencano e quindi eternizzano su YouTube i loro oggettini dai quali non si separerebbero mai. Questa ragazza, guarda, è il suo scrigno di gioielli, ogni gioiello è legato a un ricordo. Non dico che i gioielli siano da buttare via, ma probabilmente siamo circondati da qualcosa che ci appesantisce. L'oggetto in sé non è pesante per la sua forma, per il volume, per lo spazio che occupa, ma pesante per ciò di cui noi l'abbiamo caricato. Perché teniamo quell'oggetto? Perché il signore teneva le 4 caffettiere bruciate? Perché probabilmente un oggetto ci ricorda qualcuno, ci ricorda qualcosa. L'oggetto diventa il catalizzatore, il supporto di momenti dei quali non ci vorremmo separare. Guardate che i ricordi non occupano spazio, i ricordi si mischiano, li sovrappongono, occupano interstizi nel nostro cervello che è sempre riempibile, e la nostra coscienza può essere sovraccaricata di ricordi. Poi arriva, ahimè, salvifica la demenza senile e lentamente si fa una sorta di spurgo fisiologico dei propri ricordi. Ma gli oggetti no, gli oggetti è pericoloso tenerli, soprattutto quando gli oggetti ci ricordano qualcosa. Mi scrive Elena su Facebook: ogni volta che butto qualcosa provo un piacere quasi erotico, sono una professionista nel buttare via, per cui vengo richiesta da quegli amici che invece hanno una relazione, una resistenza a farlo. La mia presenza è considerata preziosa, specialmente durante i traslochi, per un sostegno psicologico. Sì, perché serve quasi una sorta di eliminatore di oggetti. C'è sempre nelle famiglie o nei cerchi di amici qualcuno che poi decide di aiutarci, come se fosse un training necessario alla nostra salvezza, di liberarci da alcuni oggetti. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei non riesce a buttare. Allora, io ho questo problema molto serio, cioè io ho la casa piena di cerpume perché non riesco a buttare queste niente. Cioè, ogni qualvolta mi organizzo per gettare qualcosa, mi viene una sorta di blocco psicologico e lascio tutto al loro posto. Ho la casa pienissima, quindi il mio spazio prossemico è stato estremamente mi viene tolto da queste cose, alle quali mi sono affezionata in una maniera quasi paranoica. Come se fossero esseri umani, praticamente. Come se fossero qualcosa di me stessa, fossero proiezioni di me stessa. Ma lei vive sola? Io non riesco a vive sola, Anna Maria? Sì, vivo sola. Sì. È intuibile, perché lei attribuisce a ogni oggetto un carattere quasi umano. Sono sì, quasi delle sì, faccio diventare soggetto quello che poi in effetti è un oggetto, è materia, no? La spiritualizzo in qualche modo. Ma qual è l'oggetto dal quale veramente ha un rapporto più promiscuo e non si vorrebbe mai liberare? Guarda, guardi, ho avuto difficoltà, ho dovuto buttare dei libri perché mi veramente ero piena di libri e quelli ho avuto grandi difficoltà, alcuni li ho regalati, molti li tengo perché all'interno di quei libri ci sono dei messaggi che sono serviti nella mia vita e quindi ho difficoltà a buttare i libri, per esempio. Ah no, guardi, quello è una grande, anzi sto preparando uno scatolone, fra un po' saranno nel cassonetto che chissà sa dove è. Io ogni tanto faccio questi messaggi e dico butto via dei libri, c'è subito delle croce rossine che vengono lì, riprendono, no, i libri no, è un delitto, il libro è fatto per leggere e per buttare, nella raccolta differenziata della carta naturalmente. No, però a volte il libro lei lo può rileggere, rielaborare, non è detto che sia da buttare un libro. Vabbè, ma chi rielabora sempre non ha spazio e tempo per nuovi pensieri, nuove elaborazioni. Sì, questo è anche vero. Ecco, mi dica, in effetti vorrei capire la percentuale nella mole degli oggetti che riempiono la sua casa, la percentuale per categorie, cosa sono? Tazzine da tè, caffettiere? Allora, per esempio, sono libri, bamboline che io ho raccolto, sono pupazzetti e bamboline, una serie di bambole che raccoglievo quando ero ragazza, sono Quante bambole avrà? Quante ne avrà? Avrò un centinaio di bambole. Ma cosa ci fa con 100 bambole? Niente, niente, sono lì che pigliano polvere, che tra l'altro devo lavarle ogni Ma le regali a delle bambine che almeno ci giocano? No, le ho alcune, molte cose le sto piano piano regalando, ma sai il problema qual è, Nicoletti? Che bisogna elaborare dentro di sé l'azione poi da compiere. Sì, ma tempo che elabora la vengono a prendere i beccamorti, mi scusi la leggerezza con cui glielo dico, ma se non si sbriga portano prima fuori lei da quella casa che gli oggetti. Sì, ha ragione, sembra un museo del leggero, è vero, bisogna... Allora, faccio un sacrificio oggi sulla nostra crociata della leggerezza. Mi dica una cosa che butterà via sicuramente, ma si impegna a buttarla. Una a cui tiene molto. Una cosa a cui tengo molto, oddio. Però deve buttare veramente. Ma deve buttarlo. Appunto, siccome mi devo impegnare. Posi lo sguardo su qualcosa. Dei vestiti che sono anni che non metto, che spero sempre di poter rimettere. E mi dica un vestito in particolare che butta via adesso. Un vestito che in particolare, vediamo, vabbè, un vestito che ho nell'armadio. Ma dai, com'è? Quale? Momento, quale? Quello verde, quello giallo, quello rosso, quello blu, quello a velo, quello a trine. Butterò un taglier nero che ormai è veramente antesignano e quindi sicuramente non lo vedo che va tanto più. Il taglier nero fra le mie ascoltatrici, è già la seconda che allucina taglier neri. Buttate via i taglier neri, si mettono ai funerali, ma cosa ci si fa col taglier nero? Maria Piera, buongiorno. Buongiorno. Ma io sono d'accordo con il signore, che io mi trovo con tante cose in casa, ma sono ricordi. Quello ingombrante è un giradischi a mobiletto, 78 giri, addirittura il mio suocero. Ma che ci fa? Niente, è in montagna, la radio invece l'ho a Firenze, per cui non può funzionare, però faccio fatica a buttarlo via, perché ho ancora tutti i dischi dentro di mio socio, 78 giri, addirittura uno... Pensi che è bello lanciarli alla finestra, uno dietro l'altro, e vedere schiantarli per terra. Perché addirittura un centenario di Verdi, per un disco uscito per il centenario della nascita di Verdi, e mio marito mi diceva, ma guarda che è numerato. E con questo discorso io non riesco a buttare via niente. Ma se lo venda, ci prenda una cassa di vino e se lo beve, almeno sta contento. Forse sarebbe meglio. Ma certo, sicuramente. Ho addirittura ricordi della prima guerra mondiale di mio suocero. Ma scusi, ma allora li regali a un museo, a una fondazione? E sto proprio pensando a quello. Guardi, le suggerisco. Addirittura ho delle fotografie al museo. Guardi, se lei ha qualcosa che riguarda fatti di guerra, fino alla prima guerra mondiale, c'è il Museo del Risorgimento con l'ottimo professor Pizzo, che tante volte è venuto. Ho anche una camicia d'un garibaldino del 1866 con tanto di certificato di volontario e tutto il resto. Ma perché non dà tutto questo al Museo del Risorgimento qui a Roma? Ci mette una bella lapide sotto, scritto il suo nome, offerto dalla signora tal d'età. Sì, va bene, la famiglia di mio suocero, cioè era un disavolo di mia suocera che appunto era scappato. Marco Pizzo, andare, che sta ascoltando, già si sta fregando le mani sperando di aggiungere al suo museo altri... perché è del 1860. Ma a casa sua, fra l'altro, nemmeno le vede nessuno queste cose. No, l'ho messa in una teca, mio marito me l'ha mise in una teca. Sì, ma quando voi fra 2000 anni non ci sarete più, arriveranno o dei nipoti insulsi che butteranno tutto o la prima persona che entra. Perfettamente convinta. E allora, finché è in tempo, diciamo, detto che va lasciar detto non serve, va fatto subito, serve? Va fatto subito. Allora devo decidermi. Darò il suo, se lei mi permette, la metterò in contatto con il Museo del Risorgimento e finalmente regalerà l'umanità. Anche visitato, l'ho anche visitato il Museo del Risorgimento a Roma. Gli fanno una bella rituale che lei porta al reperto, lo mette lì, gli fanno la foto. Una signora è venuta con una bandiera del nonno di Porta Pia, ancora sopravvive nel mio profilo Facebook. Grazie, ci sentiamo tra un istante dopo il traffico. No, non è vero, è allora che mi fate segno. Stamattina la borsa, ce l'ho dato la borsa che non c'era. Il traffico sarà fra 5 minuti esattamente, quindi andiamo avanti con Helen. Buongiorno. Sì. Grazie per avermi dato questa possibilità. Pronto? Sì, sì, vi sto ascoltando. Io volevo stavo cazziando il professor Rucchetti, mi faceva segni sbagliati. Sì. Vivevo abitavamo in quattro dentro casa, mie due sorelle con mio figlio abitavamo e che avete buttato via delle quattro? Sono andati via e ho continuato a vivere come se fossero insomma con tutte le cose, il congelatore, le cose. Quando ho capito... No, scusi, non ho capito il rapporto. Eravate in quattro, adesso è sola, nel congelatore cosa ci ha messo? No, tutti e due, siamo rimasti in due. Io ho continuato a vivere in quella casa come se fossimo quattro, pratico, con tutti i ricordi, le cose. Quando ho capito... Cioè con le camerette, con i lettini, tutte fatte, come ci fossero altre persone? Sì, sì, quando ho capito non ci stanno più, ho buttato via tutto e mi sono proprio come si... liberata. E adesso ho questa voglia ogni volta di liberarmi di qualcosa, non vedo all'ora, fra poco, qualche giorno trovo il tempo di buttare via le cose che non servono più. Ma ad esempio cos'è che vorrei buttare? Ad esempio dei vestiti, tutte le cose, anche dei mobili in cucina. Io da quando ho buttato la prima volta dentro, sembra che le lascio la metà roba da buttare e la metà che rimane. Vabbè, abbiamo capito che diciamo, in questa operazione ha bisogno di una guida, ma presto lo farà e starà senz'altro meglio. Sonia? Sì, Nicoletti? Allora, innanzitutto non ho buttato via Nicoletti. Vabbè, ma sta presto, spegne la radio e non mi sento più. No, io volevo dire solo una cosa, che secondo me il gettare gli oggetti rappresenta proprio la miglior psicanalisi. Perché la miglior cura, diciamo. Devi fare un lavoro molto, molto profondo. Ma perché c'è tutta questa difficoltà? Perché uno è così legato a un oggetto? È un oggetto. Glielo dico, vada intanto da soggetto a soggetto. Per esempio, io sono sposata a una persona che assolutamente non è legata agli oggetti. E lei vorrebbe buttare via la persona? Ci si è provato tanti anni fa, adesso non, dopo 30 anni di matrimonio magari non vale più la pena, diciamo. No, perché non lo vuole più nessuno. È uno scherzo, le volevo solo dire questo, che vivendo in due persone così diverse per quanto riguarda il rapporto con gli oggetti ci si deve un attimo venire incontro, però io ho trovato che essendo una che teneva molte cose dopo un periodo di crisi, perché mi ha fatto buttare via cose anche importanti, oggetti importanti, però per il quindi è stato oggetto di disputa familiare il fatto che... Sì, sì, assolutamente. E cosa le fece buttare quell'uomo crudele? Beh, allora, cominciamo dagli oggetti dell'infanzia, del bambino che abbiamo avuto, quindi giustamente... I giocattolini quando vostro figlio era piccolo? Ma no, proprio cose, i vestiti e tutti quegli accessori. Teneva i vestitini del bambino quando lui aveva già i baffi? Diciamo che sì, è una buona immagine, però volevo aggiungere solo una cosa veloce in coda. A me è stato fondamentale Angoli di Mondo. Angoli di Mondo è un'associazione che c'è a Padova, ma credo sia dappertutto, per cui fanno il lavoro sporco che dovremmo fare noi, nel senso cioè che... Cioè dei killer, cosa sono? No, assolutamente. Tu regalando l'oggetto magari a cui, perché metterlo nel cassonetto giallo per esempio, oppure proprio cassonetto vero, è veramente una cosa che ti può far male. È come una fossa comune per una persona cara. Sì, visto che poi io ho avuto una persona carissima in fossa comune, ha toccato un tasto abbastanza doloroso, però anche quello fondamentale, perché per esempio lei potrà fare un'altra puntata bellissima sul fatto della cremazione, tenere il corpo, oppure non c'entra solamente... Però volevo solo dire questo, con Angoli di Mondo loro rivendono gli oggetti e danno le mi sembra un'ottima cosa. Un'altra cosa, allora chi non avesse Angoli nel Mondo comunque c'è sempre la possibilità di lasciarli nel cassonetto, passano i rumeni con il carrellino e anche loro ne fanno un uso senz'altro proficuo, almeno per loro. Melog, la realtà condivisa. Buongiorno, zollette di zucchero con il miele. Allora, la prima è questa, è praticamente un girocollo e me l'aveva regalata tipo alla cresima. E rimane una delle mie collane preferite in assoluto. La seconda, bellissima, è di Accessorize, appunto, l'ho pagata sui 20-25 euro e mi piace tanto davvero. Mamma, scusate, ma sono tutte unite. Poi abbiamo questa, sempre con una catena molto lunga, che ha questo pendente, diciamo, ciondolo, con il cuore da una parte con brillantine a forma di fiori. Se non altro, gli oggetti inutili servono a passare tempo, a tirarli fuori, a guardarli, a ordinarli, a rimetterli dentro, come facciano i nonni veterani con le medaglie, come facciano le nonne con i ricordi di fanciullezza, come facciano i bambini con i dentini che gli cascavano. Esiste ancora la macabra abitudine di conservare ciuffetti di capelli dei propri figli. Poi una volta succedeva, spero che oggi questa cosa sia passata in disuso. Riccardo, buongiorno. Sì, ciao Gianluca. Buttare, cosa butti? Sì, io sono assolutamente per il buttare tutto, tant'è che per quanto riguarda per esempio i vestiti tendo a fine stagione a buttare quei 4-5 vestiti che metto sempre e poi li ricompero la stagione successiva, visto che comunque sono sempre quei 3-4 insomma che metto, alla fine ho adottato questa politica. Sì, lo so, però dispiace dire... molto, perché oggi tra l'altro l'abbigliamento ha anche prezzi elevati. Però uno si rende conto che quella giacca, parlo per quello che riguarda l'abbigliamento maschile, o quel soprabito nel quale avevamo investito notevolmente, ci piaceva molto, passano 2 anni, è immettibile, anche se è nuovo, che magari non sai, è immettibile perché non te lo puoi più mettere addosso, lo vedi, è roba vecchia, mette tristezza, meglio buttarlo, così almeno non si ha nemmeno davanti a questa sorta di muta richiesta di attenzione che ci fa un abito dalla sua gruccia e dice mettimi, indossami, ancora sono buono, no, lo butti via e non ci pensi più. Esatto, sì. Però volevo anche dire questa cosa, invece mia madre, che è una persona che ovviamente penso come tutte le persone di una certa età, conserva tutto, proprio l'altro giorno... Sì, avrà la mia età più o meno, comunque, beh, sì. Ok, non lo so, comunque posso immaginare di sì. Mi ha dato uno scatolone con una serie di diari di quando ero al liceo, e sinceramente mi ha fatto molto piacere risfogliarli, vedere insomma il libretto delle giustificazioni con le firme false che faceva lei, no? Sì, no, firme false no, perché comunque non ho mai... Avevo il mio libretto del liceo, negli ultimi 2 anni c'era solo la mia firma, ormai nemmeno sì. Passava più per le mani dei genitori, però vabbè, ognuno... No, io ero sfortunato perché avevo il papà che insegnava nella stessa scuola, per cui era... Quindi non c'era possibilità di eludere. E adesso esatto. Può finalmente dare fuoco a questi libretti e... chiudere una parentesi della sua vita, no? Sì, poi... li porterò in discarica, più che dare fuoco. Giustamente, ecco, perfetto. Però è stata una parentesi piacevole, insomma, rileggerli e riguardarli. Matteo, buongiorno Matteo. Ah, buongiorno. Niente, volevo chiedere se lei sa quanta plastica si può trovare in merendine, ovetti Kinder. Lo so, per anni andava molto di moda nelle scrivanie, anni 80 fino agli anni 90, sì, fare la fila dei pupazzetti degli ovetti Kinder. Ma perché erano reputate cose preziose. Adesso i bambini le aprono, le buttano per casa, sotto i divani, ovunque, e tu sei deputato alla raccolta, al mantenimento e alla tenuta in ordine di queste cose. E non sei assolutamente in grado di poterle buttare via, perché tutte le volte che uno cerca di svuotare viene assalito insomma in malo modo, perché... Sì, ma anche l'ovetto stesso di plastica, il contenitore dell'oggettino smontabile e rimontabile in sé ha un suo ingombro, è difficile buttarlo via, o non sa più nemmeno cosa farne di tutti questi ovetti per casa. E disegni anche dei bambini che sin dall'asilo, dalla scuola materna fino alle medie, appesi ovunque, dopo cominciano a raggrinzirsi. Sì, è triste tutti. Che quando i figli vanno in scuola elementare, alla fine di ogni anno ti portano a casa uno scatolone di tutti i lavoretti dei figli e c'è la casa invasa di orribili cose fatte con tazzine, mollette a pendipanni, con il DAS, con bicchierini di carta. Tutta la follia creativa delle maestre viene riversata a casa tua. Buttare. Marco. Buongiorno. Eccomi. Senta, io mi sono preso, allacciato il discorso da lei che ha la casa all'Aquila. Sì. Come tutte le mie, chiamiamole vecchie, dal inizio del Novecento sono morte tutte, ho ereditato un mucchio di case che ho lasciato. Un mucchio di case, beato lei. Purtroppo no, beatamente ho lasciato, ho levato tutta l'oggettistica, cioè le stupidate che non servivano, però ho tenuto ad esempio una radio ancora a valvole, ho degli spaccati di vita, diciamo, dal 1900 in su, e quando le apro, le frequento, addirittura quella di mio bisnonna non ci ho mai messo al frigorifero, l'ho lasciate così intatte. E le premetto una cosa, che io vivo in una casa spartana, fatta di ardesia, che non c'ho armadi, tutto a muro, che c'ho un letto fatto di cemento con il materasso sopra, non ho una cripta, senso non è dell'oggettistica, solo della pratica, però quando faccio questo tuffo nel passato, mi creda, ad esempio vedo dei vecchi film, ci sono quei mobili dei film di Amedeo Nazzari, sa, quelle cose fatte, sì. Ho lasciato tutto intatto, buttando via. Vabbè, diciamo al privilegio di avere una disponibilità di varie case, e ogni casa è un museo da attraversare, non ho nulla in contrario, io parlo del nostro habitat quotidiano, dove viviamo noi. Anche a me piacerebbe avere una casa piena di ricordi, andarci ogni tanto, lasciarmi dissolvere in mezzo agli oggetti che hanno una storia, ma dove vivo io non vorrei niente, sono d'accordo con lei, vorrei armadi a muro, letto di cemento e nulla in più di quello che è strettamente indispensabile. Sebastiano. Io volevo però, scusate, fare un appello, che certi oggetti, noi siamo la somma di ricordi, di passioni, e molti oggetti racchiudono questo, e non solo cose nostre. Io sono fieramente possessore di un jukebox che del 60, che ho con calma cercato il modello giusto, come lo volevo io. Ma completo di dischi, cioè funzionante? Completo dei dischi, funzionante, o meglio, l'ho fatto arrivare usato dalla Germania, l'ho restaurato io che assolutamente non sono capace assolutamente di fare nulla manualmente, eppure questo ci ha messo tante di quella passione, mi sono fatto aiutare anche degli artigiani giusti, i quali hanno messo a loro volta passione in questa cosa. Sì, però, cosa. Guardi, non vorrei essere frainteso, questa è una scelta di qualità, non è riempirsi la casa di ciarpame. Lei ha riportato in vita un oggetto che ha lo stesso valore di un mobile d'antiquariato o di una suppellettile di pregio, lo tiene in casa e probabilmente l'arredamento di casa sua ha al centro questo jukebox, è una scelta di gusto. Esatto, non è soltanto per una questione di bellezza. Se lei si riempisse la casa di giradischi degli anni 70. È anche l'idea di questo jukebox che ha 52 anni, l'idea di quanta gente ha ballato, si è dato il primo bacio, ha vissuto passioni. Sì, ma io capisco, è una sorta di totem al centro di casa sua che emana ispirazioni per catene di pensieri, è favoloso, esatto. Questo, ma io sto parlando del ciarpame che troviamo ovunque. Ma anche sul ciarpame, per esempio, posso dire una cosa, io ho due bambini piccoli, e mia suocera è arrivata l'altro giorno con, si immagini un po', i peluche con cui giocava mia moglie. Oddio, saranno pieni di acari. Puliti, sistemati, che sembrano nuovi, e lei a parte risparmia, perché così non ho dovuto comprare altri peluche, ma la mia moglie deve vedere i miei bambini come adorano questi peluche, la soddisfazione di mia suocera di vedere i suoi nipoti che giocano ancora con i peluche. Avete creato una sorta di culto casalingo dei lari fatti sotto forma di peluche. Buona Pasqua a tutti, ci sentiamo tra poco.